che così sia. Udo figlio lu Gesù, tanto penserai a tanti orni e tanti mesi per giungere oggi a tanti malanni, e perché la sia più dolce la doi offesa, Maria, aua non ti scorda. Da libri di passi soia la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stome d'ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria lo rebenò d'aua mare. Maria, nimuli bar.